senso di raggiungere quello che non hai. Ecco un altro giorno come ieri, aspettare il mattino per ricominciare. La colpa d'essere vivo e non poter cambiare. Come un ramo secco abbandonato che cerca inutilmente di fiorire. Si fa mondo dove brilla la tua luce.